772. Macedonia. Ben venga la signora Macedonia, che io chiamerei con nome paesano miscellanea di frutta in gelo, la quale sarà gradita specialmente negli infuocati mesi di luglio e di agosto. Per far questo dolce, se non potete servirvi di uno stampo da gelati, occorre un vaso di bandone in forma di gamella o di tegamino, col suo coperchio che chiuda ermeticamente. Prendete molte varietà di frutta della stagione, matura e di buona qualità, e cioè ribes, fragole, lampone, ciliegie, susine, albicocche, una pesca, una pera, e cominciando dalle ciliegie, tutte le dette frutta sbucciatele e tagliatele a fettine piccole, come i semi di zucca all'incirca, gettando via i torsoli e i noccioli. Del ribes, pochissimo, perché ha semi troppo grossi e duri. Invece sarebbe bene unirvi un po' di popone odoroso. Preparate le frutta in codesto modo, pesatele, e ammesso che siano in tutto grammi 500, spargeteci sopra grammi 100 di zucchero a velo e il sugo di un limone di giardino. Mescolatele e lasciatele per mezz'ora in riposo. Ponete un foglio di carta in fondo al detto vaso di bandone, riempitelo distendendovi le frutta pigiate alquanto, chiudetelo e collocatelo in un bigonciolo framezzo a ghiaccio e sale, che vi resti tutto coperto per diverse ore. Se non si sforma naturalmente, bagnatelo con acqua calda e servitelo, che vedrete farà bella mostra di sé come un pezzo duro gelato e marmorizzato. Questa è una dose per 4 o 5 persone.